detto Chihuahua. Tonino, Tonino. Ciao Mari. Tu, ti senti? Sì, Tu è? Riposino fatto. Ah? No, no, non si è uscito. Addirittura? E come mai? Adesso sì, schiaccia bene il microfono. Mica sto uscendomi. Adesso sì, prima no. Quasi è caduto. E allora, dormi hai? Ehi, comunque con Gai che cosa ha dormito? Ui. Io ce l'ho visto accesa qua, Catta, se no gli dà ragione. Troppo caldo sta facendo, troppo. Che caldo c'è molto caldo, per carità. E già vado a finire sul gas, non sarà sempre così, no? Oh, quello là attaccato, quello piccolo. Sta uscendo bene. Quello che va bene, Catta, è tutto nuovo. Sta uscendo bene, Gio Maria. Modulazione è perfetta. Ok, meglio così, va, da funziona allora ancora, per carità. Ebbene, c'è nessun altro? Sono entrato da va. E a chi ho acceso adesso? Acceso anch'io adesso. Tutti col culo a mollo sono. Si stanno rinfrescando le chiappe. Sono tutti col culo a mollo. Sono tutti, se lo possono permettere. Ma tutti no. Stiamo andando bene adesso, caldo, se no e lo finisce un casotto, ma una stato viene, proprio viene il caldo, prima il fresco dopo il caldo, momenti. Ehi, stamattina, quando è? Stamattina, stamattina, ieri sera ci stava bene, verso le 2 ha fatto un cacchio che mi ha già attaccato l'avvento, non si può dire a casa, tutto sudato io. Lo credo questo caso che fende, grazie. Sì, ma è normale questo caldo, no? Più che caldo sono incinti. Per carità, gatto. Ora. Vedremo. Vedremo quando saremo tutti arrostiti dal caldo. Ma il piccolino stai usando, no? Cos'è, Giovanni? Non ho capito. Senti, il piccolino stai usando? Il piccolino? L'apparecchio. Ehi, il portatile sto usando, Giovanni. Ma quello lo stai usando? Ehi. Ma non mi senti bene? Ehi, sto rispondendo, a me che non mi senti. Sei stato strano però, Strano? Cambia radio allora. Aspetta, è passato adesso? 1, 2, 3, prova. Perché c'avevo il volume basso, capito? Ehi, questo dialogo mi senti strano. Scaricare, cazzo. Ho voluto provare perché l'ho provato la sola volta in campagna e basta, capito? No, vanno bene quella radio lì, vanno benissimo quella radio lì, a Vulvia. Già lo credo, lo credo che vanno bene, come pure, per carità. Aspetta, un sacco, metto l'altro, va. Via, andave. Tanto fa caldo. Manuele, andai caldo. Ui qua, cacchio, ui, lascia perdere, cazzo che non si bocca. Un po' di venticello sta tirando adesso, ma prima c'era da schiumare. Troppo caldo, se non cambia sto tempo è un casino. Con chi sei? C'è Gio Maria che stava cambiando la radio, te riprendeva subito. Gappa. E Tonino, non si è fatto sentire? Boh, l'ho sentito stamattina, poi non lo so se doveva fare cosa stasera o che cosa. È sempre impegnato, sempre vende da tavoli, sedie. Mi dà la giuricchio, aveva così bene impegnato. Bello quel tavolo, molto bello. Lo sa lavorare bene il legno, sì, mi ha mandato la foto. L'ho visto. Vabbè, almeno fa qualcosa. Tanto adesso in ferie, c'ho tutta questa settimana ancora, poi la prossima rientro al lavoro. E io rientro mercoledì. Mercoledì ho già qualche cosettina da fare. Ma rientri a casa? No, non lo so, quella decisione aspetta mia moglie. Ma io devo viaggiare perché c'ho da fare. C'ho da fare. Ho cognato ma chiesto di rientrare, quindi devo rientrare da loro mano, se no è un casino. Non lavori, niente soldi. È così, Claudio, è così. Vabbè, speriamo che si abbassa e cade in paladura, perché cazzo qua lo stesso. Questo caldo già sta rompendo le palline. Non lo sopporto più io. Io ci vento da ovest, quindi dovrebbe essere ponente. Ponente, dovrebbe girare per stare bene bene bene, dovrebbe girare a maestrale, ma dice che arriva al maestrale. Ma non ti preoccupare che da giovedì siamo d'ora a 37 gradi, mi. Non hai capito? E venti sud-est e sud-ovest, e quindi venti caldi, Vai tu, ma non è caldo, secondo me non è caldo. Non è caldo sicuro questo qua. Baricano, un caso così non l'avevo mai visto noi. Gli incendi già ce ne sono stati, ma non penso che. Oh, con questi venti. Per chi deve mettere fuoco, stai pur certo che è un bel lavoro, però non ha detto niente la televisione oggi. Vediamo se c'è Gio Maria, non c'è, non lo sento. Ho sentato, aiuta niente, dove? No, qua non tira neanche un filo di vento, sta tirando qua, pensa a due. Lascio che maestrale o cra, e là che è un coso, un foro, guarda, no. No, vabbè, qua già sono in alto, io già c'è un po' di venticello. Dovrebbe essere da ovest, quindi da ovest e ponente. Non dove sta maestrale, quindi. Non si sta bene, ma non si sta neanche male. Un po' di brezza c'è, dai, rispetto a ieri, un po' di brezza c'è, o avanti ieri che sia. Comunque va bene, dai. Se entra il maestrale vedrai che stiamo molto meglio. Sì, speriamo che si fosse a ripirare un poco. La rinuncia non si budiaca, non ti dico lunga che ripira anche. Caldo c'è, caldo. Caldo, caldo, caldo. Noi abbiamo tutte le. I portelloni aperti con le zanzariere, quindi se no ti si mangia la zinzola, la mocca. Però insomma, già si dorme, per carità, rispetto a Sassari sicuramente. Però c'è caldo, sempre caldo. Speriamo che. Io pensavo che fase aveva le notti, arriva la sera, perché c'era l'aria nera nera. Ha giurito o Eva o è fuoco in qualche luogo. E infatti Eva di sudori, Eva è luogo. Ma oggi ha dato soleggiato e nuvoloso. Poteva anche dare un colpettino, perché so che al sud, verso la zona di Stano, Cagliari, quelle zone lì, ha dato una passata d'acqua all'ora di pranzo. Qua niente. E vabbè. Arriverà anche quella, Manuè, poi ci lamentiamo perché piove troppo e perché c'è troppo freddo. Godiamoci ancora questa estate. Intanto fino a settembre siamo usciti, non ti preoccupare. Ma se non so che andare ancora a fare un bagno, cosa. Fammi ne può fare la bollaria va. Anch'io a Mari non mi so che ancora andato, ben saldo. L'hanno baciato, mi pare che hanno dato una voce al contatto. E che a Mari ha visto. Perché a Mari è fatto, io non ho bisogno di andare al mare. Non ho bisogno di andare al mare, siamo andati l'altro giorno a salutare degli amici di mia figlia, la compagnia Taia d'Alghero, lì a Punta Negra, e siccome ci abita anche mia sorella lì a Punta Negra, a Fertilia, erano lì nelle rocce, loro sono sceso, sono rimasto un'oretta con loro, ma non spiaggia, non spiaggia, e bagno non me ne ho fatto, quindi no, anche io non, niente mare. Si sta benissimo a terra senza stare in mare. È un casino, no. E poi ieri sono passato alla passeggiata a lungomare, per carità, non si poteva manco baccheggiare da Lugasino di Vira, tutta ammutturata, tutti senza mascherina. Quello è una brutta cosa. Io l'ho detto che non abbiamo capito niente, non ci siamo messi in condizione di poterci tutelare, dico tutti in generale, compreso anche io, perché Questa cosa sta continuando ad andare avanti e sono sicuro, ma sono sicuro proprio, che penso che a settembre-ottobre siamo d'ora in lockdown, sicuramente, tutto fermo. Allora, prima di tutto adesso stanno, hanno già chiuso le discoteche, hanno già chiuso. Vedrai che dalle discoteche partono attorno ai bar, iniziano a chiudere attorno ai bar e vedi alla fine chi si sarà le donna, anche 3 mesi come avevamo fatto. Sì, sono 3 mesi, se non so di più. Sì, Emanuele, ma la colpa è la nostra, non è del governo, non è di nessuno. Noi ci hanno dato la possibilità di capire, di confrontarci un po' con questo cacchio di virus. E invece ci siamo confrontati e ci stiamo confrontando molto molto male, perché non ci stiamo adeguando, non ci stiamo riservando, non stiamo facendo assolutamente niente. Parlo in generale perché è così. Le discoteche per me non erano da aprire, i bar erano da aprire perché è un servizio pubblico che serve a tanta gente, a chi ha vizi e a chi non ha vizi, però ci voleva molta molta molta più attenzione, soprattutto da parte dei gestori e soprattutto da parte nostra. Invece 2 anni in qualsiasi bar nessuno va a mascherina, sono tutti ammontonati uno vicino all'altro, non va bene. Sì, fate così. Io dove rigiri e ti rigiri sono tutti quanti senza mascherina e cosa devi fare? Ui. Cosa devi fare? Adesso vedrai che ci stanno piano piano chiudendo i punti, prima le discoteche, vedrai che fra un poco torna la sala arriva, dopo di arriva torna la sala tutti i bastoni che non fanno uscire più a nessuno, voglio vedere un casino che si strida a bui. Ma infatti è così, Manuel, però ti ripeto, la colpa è anche nostra. Un po' più di attenzione, hai visto che quelle poche volte che noi siamo andati a prendere il caffè assieme, tu hai mai visto nessuno in Kiwi con la mascherina? Io non ho mai visto mancuno. E mancuno venire, infatti, vedo la cameriera, a me sì, va via la mascherina, ma è come se non va via, anche vedo via sotto al naso. E quello è un segno brutto, perché tu gestore devi imporre ciò che il governo ti ha detto di fare. Se tu non lo imponi, un giorno non dici niente a uno, un giorno non dici niente a quell'altro e continui così, la gente viene lì e inizia a mucchiarsi perché dice andiamo lì, tanto mascherina non veni voi. Sta funzionando così, capito? Stanno lavorando tutti quei bar dove c'è una disattenzione pazzesca, non ci sono regole, capito? E tutti vanno lì. La discoteca non era da aprire, perché la discoteca non è un servizio pubblico, è una cosa di divertimento, quindi per il momento si poteva tenere così, capito, per quest'anno, far aprire le attività commerciali, quelle dove appunto c'è un servizio pubblico, e basta, ma ti ripeto, con molta attenzione, invece attenzione non ce n'è. Ui, attenzione, ma si hanno fatto vedere le discoteche dalle zone di Alghero oppure Roma, tutti quanti attaccati senza mascherina, ma alcuno viene la mascherina, neanche uno ce n'era con la mascherina, fatelo conto. Quello è un errore madornale, Manuel, perché la discoteca non era necessario per quest'anno. Non era necessario, lì non puoi fare distanze di sicurezza, lì per forza c'è l'assemblamento, perché devi badare noi in chi su quadrato, chi ti vuole a badare, devi giovirusi e sei vicino, non c'è niente da fare, hai visto a Porto Rotondo? E anche lì l'hanno chiusa, eppure sono in piena stagione perché è tutto pieno. L'hanno chiusa, ma se ne sono accorti troppo tardi, perché se c'è qualcuno asintomatico, c'è qualcuno che ha già incubato, avrei a vedere un casino che succede. Sì, vedrai adesso piano piano. Un attimo che stanno suonando la porta, ok. Vai, già sono qua. A te, Totolino! Manuel! Ciao Mari! È a scattare un pezzo!